C'era un certo nembo serale che sempre si era dissipato dal ciglio di Mrs. Glegg quando ella si sedeva a tavola per la colazione. Ed era il suo fintino di riccioli sfatti. Perché, siccome al mattino si occupava delle faccende domestiche, sarebbe stata pura stravaganza di mettersi indosso qualche cosa di così superfluo alla riuscita di una pasticceria ben cotta, come poteva esserlo un fintino bene arricciato. Ma alle 10:30 il decoro esigeva quel fintino. Fino a quell'ora Mrs. Glegg poteva economizzarlo senza che la buona società avesse da ridire più che tanto, ma l'assenza di quella nube rendeva ancora più evidente che la nube della severità persisteva sempre. E Mr. Glegg, accorgendosene, mentre sedeva davanti alla sua zuppa di latte, cibo con cui per vecchia abitudine frugale saziava la sua fame mattutina, risolse prudentemente di lasciar prendere la parola a lei, temendo che, in materia così delicata come l'umore femminile, il tocco più lieve potesse produrre un guaio. Le persone che paiono godere del proprio malumore hanno un sistema per conservarselo in buone condizioni, infliggendosi delle privazioni. E tale era appunto il sistema di Mrs. Glegg. Quel mattino ella prese il tè più leggero del solito e rifiutò il burro. Sarebbe stato un bel caso che una così energica disposizione a litigare, così fieramente pronta a cogliere qualunque occasione, non potesse incontrarsi neppure con una osservazione di Mr. Glegg che le desse modo di esplicarsi. Ma a poco apparve che il silenzio medesimo avrebbe risposto a quell'attesa. Tant'è vero che egli si sentì finalmente apostrofare nel tono caratteristico alla donna del proprio cuore. Già, Mr. Glegg, è un misero compenso quello che ottengo dopo di esserti stata per tutti questi anni la moglie che ti sono stata. Se questo è il modo come io debbo essere trattata, era meglio che l'avessi saputo prima che morisse il mio povero babbo, e allora, se avevo bisogno di un tetto, avrei potuto cambiare aria, dato che avevo la possibilità di scegliere. Mr. Glegg interruppe il proprio pasto e alzò gli occhi, non già con meraviglia inusitata, ma semplicemente con quella calma, abituale sorpresa con cui guardiamo i misteri quotidiani. Come, Mrs. Glegg? Che ho dunque fatto adesso? Adesso? Mr. Glegg, adesso? Oh, mi spiace per te. Non vedendo alcuna possibilità di rispondere a tono, Mr. Glegg tornò alla sua zuppa. Ce n'è dei mariti a questo mondo, seguitò Mrs. Glegg, dopo un silenzio, che saprebbero fare qualcosa di meglio che mettersi dalla parte di chiunque sia contro la loro moglie. Forse, avrò torto, e allora tu potrai farmi capire un po' meglio le cose, ma ho sempre sentito dire che i mariti debbono tenere per le mogli, invece di rallegrarsi e di prendere un'aria di trionfo quando la gente le insulta. Sentiamo, che motivo hai di parlarmi così? Disse Mr. Glegg, cominciando a scaldarsi, perché quantunque fosse uomo di garbo, non era mansueto come Mosè. Quando è che mi sono rallegrato e ho preso quelle arie contro di te? Ci sono certi modi di fare le cose peggiori che parlare apertamente, Mr. Glegg. Preferirei che tu mi dicessi in faccia che di me non ti importa un fico piuttosto che star lì a far vedere che tutti hanno ragione, fuorché io. E dopo che io a malapena ho dormito un'ora in tutta la notte, venirtene a colazione al mattino e farmi il muso come fossi il fango dei tuoi attivali. Io ti faccio il muso? Disse Mr. Glegg con un tono di scherno irritato. Tu sei come quegli ubriachi che si immaginano che tutti abbiano bevuto più di loro. Non abbassarti ad usare contro di me un linguaggio così volgare, Mr. Glegg. Ti rende molto piccino se anche non riesci a vederti, disse Mrs. Glegg in tono energico compatimento. Un uomo al tuo posto dovrebbe dare il buon esempio e parlare con più buon senso. Sì, ma lo ascolteresti tu il buon senso? Ritorse aspramente Mr. Glegg. La cosa più sensata, te l'ho già detta ieri sera, che hai torto a pensare di farti restituire i tuoi denari, quando questi sono già abbastanza sicuro se li lasci dove sono, e tutto questo per un povero ripicco. Speravo che stamane saresti già stata di un'altra idea, ma se vuoi farteli restituire, non precipitare le cose adesso, che provocheresti maggiori dissapori in famiglia. Aspetta piuttosto l'occasione di una buona ipoteca che tu possa prenderti senza difficoltà. Ora dovresti andare da un legale che si desse d'attorno per trovarti un investimento e non la finiresti più con le spese. Mrs. Glegg sentì che in tutto ciò c'era qualcosa di giusto, ma scosse il capo ed emise un'interiezione gutturale a indicare che il silenzio era soltanto un armistizio, non la pace. Infatti, le ostilità tornarono ben presto a scoppiare. Ti sarò grato se adesso mi darai la mia tazza di tè, Mrs. Glegg, disse Mr. Glegg, vedendo che ella non si disponeva a darglielo come soleva quando egli aveva terminato la zuppa. E l'alzò il brico del tè con una lieve scossa del capo e disse: Godo di sentire che mi sarai grato, Mr. Glegg. È così poca la gratitudine che ricevo dopo tutto ciò che faccio per la gente a questo mondo, quando poi nella tua famiglia, Mr. Glegg, non c'è neppure una donna che possa starmi vicina, e questo lo direi anche se fossi sul letto di morte. E sì che sono sempre stata cortese con la tua parentela. Nessuno potrebbe sostenere il contrario, quantunque essi non siano miei pari, e nessuno potrà mai costringermi a dire che lo sono. Faresti meglio a smetterla di trovare dei difetti nella mia famiglia, fin tanto che non avrai finito di besticciare con la tua, Mrs. Glegg, disse Mr. Glegg con acre sarcasmo. Ti disturberò per la brocca del latte. Questa è la cosa più falsa che tu abbia mai detto, Mr. Glegg, rispose lei versandogli il latte con insolita profusione, come per dirgli che se voleva latte l'avrebbe avuto sì, ma con la vendetta. E lo sai che è falso. Non sono donna io da bisticciare con la mia famiglia. Lo potrai fare tu, perché so che lo hai fatto. Beh, e come lo chiami allora quel che hai fatto ieri sera, quando hai lasciato la casa di tua sorella con quel po' di malumore? Io non ho litigato con mia sorella, Mr. Glegg, ed è falso dirlo. Mr. Tulliver non è uno del mio sangue, ed è stato lui a bisticciare con me e a scacciarmi di casa sua. Ma forse tu avresti preferito che io restassi lì a farmi ingiuriare, Mr. Glegg. Forse tu eri seccato di non sentire altri e peggiori insulti e parole sconvenienti scagliati contro tua moglie. Ma questa, lascia che lo dica, è la tua infamia. Oh, se mai sentito qualche cosa di simile in tutta la parrocchia, disse Mr. Glegg scaldandosi. Una donna provvista di tutto il necessario, che può tenersi per sé il suo denaro come se avesse un'assicurazione, con una carrozza rifoderata e imbottita, a nuovo senza badare a spese, alla quale ho provvisto, per quanto io muoia, al di sopra di qualunque sua aspettativa, trattare a questo modo, mordendo e strappando come un cane arrabbiato. Che Dio onnipotente abbia fabbricato la donna in questa maniera è una cosa che passa i limiti. Le ultime parole furono pronunciate in tono di dolorosa agitazione. Mr. Glegg scostò la tazza del tè e batté le mani sulla tavola. Bene, Mr. Glegg, se sono questi i tuoi sentimenti, è meglio conoscerli, disse Mrs. Glegg togliendosi il tovagliolo e ripiegandolo con fare eccitato. Ma se parli di avere provveduto a me in misura maggiore di ciò che potrei aspettarmi, ti prego di lasciarmi dire che io avevo diritto di aspettarmi molte cose che non trovo. E quanto al fatto che io somigli ad un cane arrabbiato, buon per te che tu non sia svergognato in tutta la contea per il tuo modo di trattarmi, perché questo non lo posso né lo voglio sopportare. Qui la voce di Mrs. Glegg mostrò che la stava per piangere. Troncando il discorso, ella suonò violentemente il campanello. «Sally!» disse, alzandosi dalla sua sedia e parlando con voce alquanto strozzata. «Accendi il fuoco di sopra e abbassa le tendine. Mr. Glegg, avrai la compiacenza di ordinare ciò che desideri per pranzo. Io prenderò della crema d'avena.» Mrs. Glegg attraversò la camera e tolse dal piccolo scaffale il riposo eterno dei santi di Baxter, che si portò di sopra. Era questo il libro che aveva costume di tenere aperto davanti a sé nelle occasioni speciali, nei mattini delle domeniche piovose, o quando veniva a sapere di una morte in famiglia, o quando, come in questo caso, il suo litigio con Mr. Glegg era salito di un'ottava al di sopra del normale. Ma Mrs. Glegg si portava sopra qualcosa d'altro che, insieme col riposo eterno dei santi e la crema di avena, poteva esercitare qualche influenza nel calmare progressivamente i suoi sentimenti e nel renderle possibile di sopportare l'esistenza al pian terreno qualche minuto prima dell'ora del tè. Ed era in parte il suggerimento di Mr. Glegg che l'avrebbe fatto bene a lasciare le sue 500 sterline dove erano, almeno finché si presentasse un buon investimento. E più ancora, quella accidentale allusione alle gentili disposizioni che egli aveva preso in suo favore nel caso della propria morte. Mr. Glegg, come tutti gli uomini del suo stampo, era molto riservato circa il proprio testamento, e Mrs. Glegg, nei suoi momenti più neri, aveva il presentimento che, come altri mariti di cui aveva inteso parlare, egli coltivasse il meschino progetto di aggravarle il dolore della sua morte, lasciandola povera. Nel qual caso era fermamente decisa a mettersi a malapena un po' di lutto sul cappello e a non piangere più che se si fosse trattato di un secondo marito. Ma se davvero egli le avesse dimostrato qualche tenerezza testamentaria, sarebbe stato commovente di pensare a lui, pover'uomo, quando se ne fosse andato. Ed anche il suo sciocco agitarsi per i fiori e le erbacce, e le sue manie per le lumache, sarebbero diventati cose toccanti una volta che fossero per sempre finite. Sopravvivere a Mr. Glegg e tesserne il panegirico come di uomo che poteva avere le sue debolezze, ma aveva fatto le cose per bene nei riguardi di lei, nonostante i suoi numerosi parenti poveri, avere delle belle somme di interessi con scadenze più frequenti e nasconderle nei vari angoli sfuggendo ai ladri più ingegnosi, giacché per Mrs. Glegg le banche e le casseforti avrebbero distrutto il piacere della proprietà, tanto valeva prendere il proprio cibo in pillole. Finalmente, essere considerata dalla propria famiglia e dal vicinato come nessuna donna può mai sperare di esserlo se non ha la dignità passata e presente, connessa con la qualità di vedova in buone condizioni. Tutto questo formava una lusinghiera e conciliante prospettiva per il futuro, sicché, quando l'ottimo Mr. Glegg, reintegrato nel proprio buon umore mediante l'estirpazione di molte erbacce e commosso dalla vista della poltrona vuota di sua moglie, con il lavoro di maglia arrotolato in un angolo, salì da lei e osservò che le campane avevano suonato a morto per il povero Mr. Morton, Mrs. Glegg rispose con magnanimità, proprio come donna che non avesse ricevuto ingiuria: «Ah, allora sarà un buon affare per chi prenderà il suo posto». Baxter era rimasto aperto per almeno 8 ore, perché erano quasi le 5, e se la gente ha da litigare di frequente, ne segue come corollario che le loro liti non possono protrarsi oltre certi limiti. Quella sera, Mr. e Mrs. Glegg chiacchierarono molto amichevolmente di Tulliver. Mr. Glegg si spinse fino ad ammettere che Tulliver era un cattivo carattere se prendeva fuoco in quel modo e che molto probabilmente stava correndo alla propria rovina. E Mrs. Glegg, andando incontro a questo riconoscimento, dichiarò che interessarsi alla condotta di un uomo simile era al di sopra delle sue forze e che, per riguardo alla propria sorella, gli avrebbe lasciato le 500 sterline ancora per qualche tempo, giacché da un prestito su ipoteca non avrebbe ricavato che un 4%. 13. Mr. Tulliver imbroglia ancora di più la matassa della vita. Grazie a questa nuova piega dei pensieri di Mrs. Glegg, all'indomani Mrs. Pallet trovò singolarmente facile il proprio compito di pacera. Certo, Mrs. Glegg la trattò piuttosto aspramente per aver creduto necessario di venire dalla sorella maggiore ed insegnarle qual era il giusto modo di condursi negli affari di famiglia. L'argomento di Mrs. Pallet, che avrebbe fatto cattiva impressione sul vicinato, se si fosse potuto dire che c'era un bisticcio in famiglia, era particolarmente offensivo. Se il nome della famiglia non avesse mai dovuto essere insidiato altro che da Mrs. Glegg, Mrs. Pallet poteva dormire tra due guanciali con perfetta tranquillità. «Non ci si aspetterà, suppongo», disse Mrs. Glegg, come per concludere la discussione, «che io torni al mulino prima che Bessie venga a trovarmi, o che io vada a buttarmi in ginocchio davanti a Mr. Tulliver a domandargli la grazia di fargli dei favori. Però non voglio serbargliela ancora, e quando Mr. Tulliver parli cortesemente con me, io parlerò cortesemente con lui. Nessuno ha il diritto di insegnarmi quali sono le convenienze». Non trovando più necessario di perorare in favore dei Tulliver, era naturale che zia Pallet si sentisse un pochino sollevata dalla sua ansietà per loro e riandasse alle seccature che aveva avute il giorno avanti dai rampolli di quella casa evidentemente malaugurata. Mrs. Glegg Si ascoltò un racconto circostanziato a cui la notevole memoria di Mr. Pallet fornì alquanti paragrafi, e mentre zia Pallet si impietosiva sulla triste sorte della povera Bessie con quei suoi ragazzi ed esponeva certo suo progetto già mezzo maturo di far le spese affinché Maggie fosse inviata in qualche collegio distante, il che non le avrebbe certo impedito di essere così bruna, ma avrebbe mitigato certi suoi difetti. Zia Glegg biasimava Bessie per la sua debolezza e invocava tutti coloro che sarebbero stati vivi nel tempo in cui i ragazzi Tulliver avrebbero girato male, come testimoni che lei, Mrs. Glegg, aveva sempre detto fin dal principio come le cose sarebbero andate a finire, osservando che era meraviglioso anche per lei come tutte le sue parole si avveravano. «Posso dunque andare da Bessie a dirle che tu non serberai rancore e tutto tornerà come prima?» disse Mrs. Pallet proprio al momento di andarsene. «Sì, che puoi, Sophie», disse Mrs. Glegg. «Puoi dire a Mr. Tulliver e anche a Bessie che non sarò certo io a trattar male se la gente ha trattato male con me. So che come primogenito ho il compito di dare il buon esempio in ogni circostanza ed è quel che faccio. Nessuno potrà dire il contrario, se vuole essere fedele al vero». Trovandosi Mrs. Glegg in questo stato di soddisfazione per la propria alta magnanimità, vi lascio giudicare l'effetto prodotto su di lei quella stessa sera, dopo che Mrs. Pallet se n'era andata via, dall'arrivo di una breve lettera di Mr. Tulliver, nella quale egli la informava che non doveva darsi pensiero per le sue 500 sterline, già che queste le sarebbero state restituite al più tardi nel corso del mese venturo, accresciute dei debiti interessi fino a tutto il giorno del pagamento, e che inoltre Mr. Tulliver non aveva avuto intenzione di mancare di riguardo a Mrs. Glegg. Ella sarebbe stata la benvenuta in casa sua ogni volta le avesse fatto piacere di venirvi, ma egli non desiderava favori da lei né per sé né per i propri figli. Era stata la povera Mrs. Tulliver ad accelerare la catastrofe per quella sua invincibile speranza di attendere sempre che le stesse cause potessero a un dato momento produrre effetti differenti. Le era più volte occorso di riscontrare che Mr. Tulliver aveva fatto certe cose solo perché la gente diceva che egli ne era incapace, o lo commiserava per la sua supposta incapacità, o feriva in qualche altro modo il suo orgoglio. E nondimeno quel giorno ella pensò che se, quando rientrava per il tè, gli diceva che sorella Pallet era andata da sorella Glegg per tentare di tutto accomodare, e così egli non avrebbe più dovuto darsi pensiero per restituire il denaro, questo avrebbe reso il pasto più gaio. Mr. Tulliver non aveva mai abbandonato il proposito di mettere insieme la somma, ma in quel momento decise di scrivere subito a Mrs. Glegg una lettera che tagliasse netta ogni possibilità di equivoco. Mrs. Pallet era andata a mendicare e a intercedere per lui. Questa era bella. Mr. Tulliver non scriveva volentieri le lettere e trovava che la relazione tra linguaggio parlato e linguaggio scritto, comunemente detta ortografia, era una delle cose più sconcertanti di questo sconcertante mondo. E tuttavia, come sempre succede per le scritture ispirate, la cosa fu sbrigata più rapidamente del solito, e se l'ortografia differiva da quella di Mrs. Glegg, era perché Mrs. Glegg apparteneva, come lui, ad una generazione per cui l'ortografia era materia di privato giudizio. Mrs. Glegg non si lasciò indurre da questa lettera a mutare il proprio testamento, né a diseredare i ragazzi Tulliver di quella sesta o settima parte che loro competeva sulle sue 1.000 sterline, perché era donna di principi. Alla sua morte nessuno avrebbe potuto dire di lei che non aveva diviso con perfetta equità il proprio denaro tra i parenti. In materia di testamenti, le qualità personali erano subordinate al gran fatto fondamentale del sangue, e il lasciarsi spingere dal capriccio nella divisione dei propri averi, senza disporre i legati in ragione del grado di parentela, formava una prospettiva di postuma onta che le avrebbe amareggiato la vita. Questo era stato sempre un principio nella famiglia Dodson. Una forma di quel senso dell'onore e della rettitudine che costituiva una fiera tradizione in così fatte famiglie, tradizione che è stata il sale della nostra società di provincia. Ma quantunque non avesse scosso i principi di Mrs. Glegg, quella lettera rese la rottura familiare più difficile da accomodarsi. e l'effetto che la produsse sull'opinione di Mrs. Glegg circa Mr. Tulliver fu tale che la pregò la si capisse se da allora in poi non si sarebbe mai più occupata di lui. Lo spirito di quell'uomo era evidentemente troppo corrotto perché ella potesse soffermarsi a considerarlo. Non fu che la sera avanti la partenza di Tom per il collegio, ai primi di agosto, che Mrs. Glegg fece una visita alla sorella Tulliver, restando però seduta tutto il tempo nella propria carrozza e mostrando il suo scontento con una vistosa astensione da ogni consiglio e da ogni critica, perché, come fece osservare alla sorella di Anne, Bessie deve portare le conseguenze di avere un simile marito, quantunque io me ne dolga per lei. E Mrs. Diane convenne che Bessie era degna di compassione. Quella sera Tom osservò a Maggie: Santo cielo, Maggie, zia Glegg ricomincia a venir qui. Sono ben contento di andarmene in collegio. A te ora buscarti tutte le ramanzine. Maggie era già così piena di tristezza all'idea che Tom stava per allontanarsi da lei, che quello scatto di esultanza le parve proprio crudele, e quella sera nell'addormentarsi pianse tutta sola. L'improntitudine di Mr. Tulliver richiese da lui ulteriore prontezza nel trovare la persona idonea che avesse desiderio di prestargli 500 sterline su cambiale. Bisogna che non sia un cliente di Wakem, aveva detto a se stesso, ma poi in capo a 15 giorni aveva dovuto cambiare opinione, non perché la sua volontà fosse debole, ma perché le necessità esteriori erano più forti. Un cliente di Wakem fu la sola persona idonea che si trovasse. Mr. Tulliver aveva il suo destino, tale e quale, come Edipo, e in questo caso poteva, come Edipo, difendersi, dicendo che la sua azione era inflitta a lui, piuttosto che commessa. Libro secondo. Anni di scuola. 1. Il primo semestre di Tom. Le sofferenze di Tom Tulliver durante il suo primo semestre a King's Lorton sotto le distinte cure del reverendo Walter Stelling furono piuttosto gravi. All'accademia di Mr. Jacobs la vita non gli si era presentata come un difficile problema. C'era là una quantità di amici con cui giocare e siccome Tom era bravo in tutti gli esercizi attivi, specialmente nella lotta, godeva tra loro di quella supremazia che a lui pareva inseparabile dalla personalità di Tom Tulliver. Lo stesso Mr. Jacobs, familiarmente conosciuto come Vecchie Lanterne, per la sua abitudine di portare gli occhiali, non imponeva un timore reverenziale. E se il saper scrivere come fosse stampato e circondare le proprie firme con degli svolazzi e possedere l'ortografia senza dover pensarci sopra e declamare il mio nome è Norval senza fare pasticci, se tutto questo era un privilegio dei vecchi ipocriti tabaccosi, Tom, per parte sua, era ben contento di non essere in pericolo di conseguire questi mediocri talenti. Non sarebbe diventato un tabaccoso maestro di scuola lui, ma un uomo concreto come suo padre, che andava a caccia quando era più giovane e montava un'eccellente cavalla nera, un magnifico pezzo di bestia da sella come non se n'erano mai vedute. Tom ne aveva sentito decantare i pregi centinaia di volte, e anche lui aveva intenzione di andare a caccia e di essere rispettato da tutti. Quando si è grandi, pensava, nessuno bada più alla nostra calligrafia o ortografia. Divenuto uomo, egli sarebbe stato il padrone di tutto e avrebbe fatto come gli pareva e piaceva. Gli era riuscito molto difficile di conciliarsi con l'idea che i suoi anni di scuola dovevano prolungarsi e che egli non verrebbe avviato ai medesimi affari di suo padre, che era sempre stato per lui un piacevole pensiero, perché non si trattava che d'andare in giro a cavallo, dare ordini e recarsi al mercato. Mentre pensava invece che un pastore gli avrebbe fatto un sacco di lezioni sulla Sacra Scrittura e probabilmente l'avrebbe costretto a studiarsi il Vangelo e l'Epistola della Domenica, nonché tutte le preghiere. Ma, in mancanza di informazioni precise, gli riusciva impossibile immaginarsi che una scuola e un maestro potessero essere qualcosa di completamente diverso dall'accademia di Mr. Jacobs. Così, per non essere in posizione di inferiorità, nel caso trovasse dei compagni simpatici, aveva avuto cura di portar con sé una scatoletta di capsule a percussione. Non già che alla scuola potesse farne qualche uso speciale, ma gli sarebbero servite a fare impressione su quei ragazzi sconosciuti, dando loro il senso della propria familiarità con i fucili. Così, il povero Tom, quantunque avesse occhi molto snebbiati di fronte alle illusioni di Maggie, non andava poi per conto proprio immune da illusioni che dovevano venire crudelmente dissipate a King's Lorton da una più larga esperienza. Ancora non vi aveva trascorso 15 giorni che già gli appariva evidente come la vita, complicata non solo dalla grammatica latina, ma anche da un nuovo sistema di pronunciare l'inglese, era un affare molto difficile, reso ancora più oscuro da una grossa dose di timidezza. Come avrete osservato, Tom non era affatto un ragazzo eccezionale per le sue doti di disinvoltura, ma la sua difficoltà nello spiccicare un monosillabo di risposta a Mister o a Mrs. Stelling era così grande che gli giungeva perfino a temere che a tavola gli venisse richiesto se voleva dell'altro pudding. Quanto alle capsule a percussione, aveva quasi deciso, nell'amarezza del suo cuore, che le avrebbe buttate nello stagno vicino, non soltanto perché era l'unico allievo del collegio, ma anche perché cominciava a provare un certo scetticismo riguardo ai fucili e un vago senso che la propria teoria della vita fosse messa in forse, perché Mr. Stelling evidentemente non pensava affatto ai fucili e nemmeno ai cavalli. E tuttavia Tom si sentiva nell'impossibilità di disprezzare Mr. Stelling, come già aveva disprezzato vecchie lanterne. Se in Mr. Stelling c'era qualche cosa di non perfettamente autentico, lo scoprirlo era al di sopra delle facoltà di Tom. Solo attraverso un ampio confronto di fatti, l'uomo, anche il più saggio ed esperto, arriva a distinguere un rotolio di botti dal tuono del cielo. Mr. Stelling era un uomo di bella complessione, d'ampio torace, non ancora trentenne, e i suoi capelli erano biondi e dritti, i larghi e luminosi occhi grigi sempre spalancati, aveva una sonora voce da basso e un'aria spavalda di fiducia in se stesso che rasentava la sfrontatezza. Era entrato nella sua carriera con grande energia e col proposito di fare una notevole impressione sui propri simili. Il reverendo Walter Stelling non era un uomo da rassegnarsi a rimanere per tutta la vita nel clero inferiore. Lo animava una vera decisione britannica di farsi la sua strada nel mondo, come maestro di scuola in prima linea, perché c'erano dei buonissimi posti nelle scuole di grammatica e Mr. Stelling intendeva di occuparne uno, ma anche come predicatore, perché egli si proponeva sempre di predicare in maniera impressionante. Sì, da avere una congregazione ingrossata dagli ammiratori delle parrocchie vicine e da produrre una profonda sensazione quando gli toccasse di sostituire occasionalmente qualche confratello meno dotato. Lo stile che aveva scelto per le sue prediche era quello estemporaneo, considerato un po' come una specie di miracolo nelle parrocchie rurali, tipo King's Lorton. La dottrina di Mr. Stelling non apparteneva ad alcuna scuola particolare, semmai aveva una tinta di evangelismo, che era allora la cosa di moda nella diocesi di cui faceva parte. In breve, Mr. Stelling era uomo che aspirava a far carriera nella sua professione e a far carriera per merito proprio, dato che non aveva appoggi maggiori di quelli che potevano essergli promessi da una problematica parentela con un grande avvocato che ancora non era divenuto Lord Cancelliere. Un ecclesiastico che abbia così energiche intenzioni deve naturalmente ai suoi esordi fare qualche debituccio. Non è presumibile che gli viva nella maniera meschina di chi conta rimanere per tutta la vita un povero curato. E se le poche centinaia di sterline che Mr. Timpson aveva anticipato alla propria figliola non erano bastate per l'acquisto di un elegante mobilio, nonché di una provvista di vino e di un grande pianoforte, né a piantare un giardino di fiori preziosi, ne segue, nella più rigorosa deduzione, o che queste cose bisognava procurarsele in qualche altro modo, oppure che il reverendo Mr. Stelling doveva farne senza, la quale ultima alternativa avrebbe costituito un assurdo rinvio dei frutti del successo, quando il successo era certo. Mr. Stelling era così ben piantato e risoluto che si sentiva all'altezza di qualunque impresa. Sarebbe diventato celebre scuotendo le coscienze dei suoi uditori ed avrebbe curato tra breve l'edizione di una tragedia greca ed escogitato parecchie nuove interpretazioni. Non aveva ancora scelto la tragedia perché, essendosi sposato da poco più di 2 anni, i suoi momenti di riposo erano stati completamente assorbiti dalle attenzioni dovute a Mrs. Stelling. Ma aveva raccontato alla graziosa donna ciò che disegnava di fare una volta o l'altra ed ella nutriva grande fiducia nel marito, come perfetto intenditore di quelle cose. Ma il primo passo verso il futuro successo era di portare molto avanti Tom Tulliver durante questo primo semestre, giacché, per una singolare coincidenza, erano corse certe trattative riguardo ad altro scolaro degli stessi paesi e una decisione in favore di Mr. Stelling sarebbe stata agevolata qualora si fosse potuto constatare che il giovane Tulliver, il quale, come Mr. Stelling aveva osservato nell'intimità coniugale, era piuttosto rozzo orsacchiotto, aveva fatto in breve tempo dei progressi prodigiosi. Per tali ragioni, egli si mostrava molto esigente verso Tom in fatto di lezioni. Si trattava, evidentemente, di un ragazzo le cui facoltà non si sarebbero mai sviluppate col solo mezzo della grammatica latina, senza l'applicazione di un po' di rigore. Non che Mr. Stelling fosse di carattere ruvido e sgarbato, tutt'altro. A tavola si mostrava giocoso con Tom e gli correggeva i modi provinciali, nonché il contegno nella maniera più scherzosa. Ma il povero Tom riusciva soltanto a sentirsi più intimidito e confuso dalla doppia novità, perché non era mai stato abituato a scherzi come quelli di Mr. Stelling e perché, per la prima volta in vita sua, aveva la penosa sensazione di essere chissà come completamente nel torto. Quando Mr. Stelling, al momento in cui si stava scoperchiando il roast beef, diceva: "Adesso, Tulliver, che cosa preferite declinare, il roast beef o il latino?" Tom, per il quale un gioco di parole, anche nei momenti di maggior calma, sarebbe sempre stato un osso duro, entrava in uno stato di imbarazzato orgasmo che confondeva in lui ogni cosa, eccettuato il sentimento che avrebbe preferito non avere più nulla a che fare col latino. Naturalmente rispondeva il roast beef, donde seguiva parecchio ridere e un certo noioso scherzo di piatti, donde Tom concludeva di avere in qualche modo misterioso rifiutato la carne ed essersi effettivamente dimostrato uno sciocco. Se avesse veduto un compagno passare per quei penosi trattamenti ed uscirne di buon animo, li avrebbe più presto considerati come appartenenti al corso normale delle cose. Ma ci sono due forme di educazione costosa che un padre può procurare a suo figlio, mandandolo come allievo unico da un ecclesiastico. L'una è che il ragazzo si goda, in divisa, la negligenza dell'egregio reverendo, l'altra che egli debba sopportare in divisa l'attenzione dell'egregio reverendo. E fu per questo secondo privilegio che Mr. Tulliver pagò una grossa somma per i mesi di iniziazione di Tom a King's Lorton. Il rispettabile mugnaio e produttore di malto aveva lasciato Tom e se n'era tornato a casa in uno stato di grande soddisfazione spirituale. Pensava che era stato un buon momento quello in cui gli era venuto in mente di chiedere il parere di Riley per trovare un maestro a Tom. Stelling aveva occhi così aperti, parlava con tanta disinvoltura e conoscenza di causa, rispondendo a tutte le difficoltose e lente osservazioni di Mr. Tulliver con un "Capisco, mio caro signore, capisco, ma sicuro, sicuro, voi volete che vostro figlio diventi un uomo capace di farsi la sua strada nel mondo." Che Mr. Tulliver era entusiasta di trovare in lui un ecclesiastico il cui sapere fosse applicabile agli affari quotidiani di questa vita. Tolto il consigliere Wilde, di cui aveva sentito un discorso nell'ultima sessione, Mr. Tulliver pensava che il reverendo Mr. Stelling fosse l'individuo più intelligente che gli avesse mai incontrato. Non molto diverso da Wilde, in fondo. Aveva lo stesso modo di ficcare i pollici nelle ascelle del panciotto. Nel prendere la sfacciataggine per intelligenza, Mr. Tulliver non rappresentava affatto un'eccezione. Molti laici ritenevano Stelling uomo intelligente e, insomma, di notevoli risorse. Erano soprattutto i colleghi ecclesiastici che lo consideravano come un individuo piuttosto mediocre. Ma egli aveva narrato a Mr. Tulliver parecchie storie sull'istinto e sullo spirito di rivolta, e poi gli aveva chiesto il suo parere sul modo di nutrire i porci, ma in modo così laicale e giudizioso, con così squisita scioltezza di linguaggio, che il mugnaio pensò d'aver trovato in lui proprio quel che ci voleva per Tom. Non dubitava che quell'uomo di prim'ordine non fosse familiare con ogni ramo di sapere e non conoscesse esattamente tutto ciò che occorreva a Tom per poter stare di fronte ai legali, cose che il povero Mr. Tulliver personalmente non sapeva, sicché gli era necessario per orientarsi di rimettersi a quella vaga specie di induzioni. Non sarebbe leale ridere di lui, perché so io di tante persone molto più colte che si abbandonano a induzioni altrettanto vaghe e non certo più assennate. Quanto a Mrs. Tulliver, trovando che le vedute di Mrs. Stelling sul modo di sciorinare la biancheria e sui frequenti ritorni dell'appetito nei ragazzi in età di crescenza coincidevano esattamente con le proprie, e ancor più che Mrs. Stelling, per quanto giovane e appena in attesa del secondo bambino, si era già fatto un'esperienza quasi uguale alla sua circa i doveri e i requisiti fondamentali di una balia asciutta, espresse al marito, mentre tornavano a casa, tutta la sua contentezza di aver lasciato Tom presso una donna che, malgrado la gioventù, pareva molto sensibile e materna e chiedeva consigli nel modo più grazioso. «Debbono essere molto a mezzi, però», disse Mrs. Tulliver, perché tutto in casa loro è quanto mai carino e quella veste di seta che aveva lei costa parecchi quattrini. Mia sorella Pallet ne ha una del genere. Ah, disse Mr. Tulliver, lui ha qualche rendita oltre la parrocchia. Forse il padre di lei passa loro qualcosa. E poi c'è Tom che gli renderà un altro centinaio di sterline, senza dare il minimo disturbo per quel che mi ha dichiarato lui stesso. Dice che l'insegnare gli viene naturale. Straordinario, però, soggiunse Mr. Tulliver, piegando la testa da una parte e appoggiando una meditativa frustata sul fianco del suo cavallo. Forse appunto perché l'insegnare gli veniva naturale, Mr. Stelling vi si applicava con quell'uniformità di metodo e indifferenza alle circostanze particolari che contraddistingue gli animali nati per vivere sotto l'immediato ammaestramento della natura. L'amabile castoro di Mr. Broderip, secondo ci dice quel simpatico naturalista, si adoperava a costruire una diga in una camera di un terzo piano di Londra, con la stessa industria che avrebbe impiegata a gettarne le fondazioni in un ruscello o in un lago dell'Alto Canada. La funzione di Binny era quella di costruire. L'assenza di acque o di una possibile progenie era un accidente del quale non era tenuto a render conto. Con lo stesso istinto infallibile, Mr. Stelling mise in opera il suo metodo naturale per infondere la grammatica di Eton o Euclide nella mente di Tom Tulliver. Erano queste, a suo avviso, le uniche basi di una solida costruzione. Tutti gli altri metodi di educazione erano pura ciarlataneria e non potevano produrre altro che dei falsi e piccoli saccenti. Fondato su queste solide basi, un uomo può osservare con un sorriso di pietà lo sfoggio di conoscenze varie o speciali da parte di gente educata senza metodo. Tutte cose che andranno benone, ma è impossibile che gente come quella possa formarsi delle sane opinioni. Nel sostenere siffatti convincimenti, Mr. Stelling non era influenzato, come possono esserlo stati altri maestri, dall'eccessiva precisione o vastità del proprio sapere. E per quanto concerneva le sue vedute su Euclide, nessuna opinione poteva essere più libera da parzialità personali. Mr. Stelling era ben lungi da lasciarsi sviare da entusiasmi religiosi o intellettuali, ma non nutriva, per contro, la segreta certezza che tutto fosse una trappola. Pensava che la religione era una cosa eccellente, Aristotele una grande autorità, i canonicati e le prebende delle utili istituzioni e la Gran Bretagna il provvidenziale baluardo del protestantesimo e la fede nell'invisibile un grande conforto per gli spiriti afflitti. Credeva in tutte queste cose come un albergatore svizzero crede nella bellezza del panorama circostante e nel godimento che esso dà al sensibile visitatore. Analogamente, Mr. Stelling credeva nel suo metodo di educazione, non dubitava di star facendo il meglio possibile per il figliolo di Mr. Tulliver. Naturalmente, quando il mugnaio aveva parlato di piani catastali e di contabilità in maniera vaga e diffidente, Mr. Stelling si era messo il cuore in pace, assicurandolo d'aver capito ciò che gli desiderava. Com'era possibile, infatti, che il brav'uomo potesse formarsi dei criteri ragionevoli su quegli argomenti? Il dovere di Mr. Stelling era istruire il ragazzo secondo l'unico metodo corretto, a vero dire che egli non conosceva che quello. Non aveva sprecato il proprio tempo ad imparare cose scorrette. Fece presto a classificare il povero Tom come un ragazzo perfettamente stupido. Per quanto infatti con duro lavoro gli avesse ficcate nel cervello le declinazioni fondamentali, una cosa così astratta come il rapporto tra case e desinenze non poteva assolutamente installarvisi in guisa da abilitarlo a riconoscere all'occasione un genitivo o un dativo. Il che colpì Mr. Stelling come qualcosa di più che stupidità naturale. Sospettò che fosse ostinazione o in ogni caso indifferenza e ammonì severamente Tom per la sua completa mancanza di applicazione. Non prendete alcun interesse a ciò che fate, signore, diceva Mr. Stelling, e purtroppo il rimprovero era vero. Tom non aveva mai provato la minima difficoltà nel distinguere un cane da corsa da un cane da ferma, una volta che gliene era stata insegnata la differenza. E le sue facoltà di percezione non erano affatto difettose. Credo anzi che fossero altrettanto sicure quanto quelle del reverendo Mr. Stelling, perché Tom poteva indovinare con precisione il numero di cavalli che galoppavano dietro di lui, poteva buttare un sasso esattamente nel centro di un cerchio, poteva valutare fino alla frazione quante lunghezze del suo bastone doveva prendere per misurare il campo di gioco, e poteva disegnare a occhio sulla lavagna dei quadrati quasi perfetti. Ma di tutto questo Mr. Stelling non faceva caso alcuno, osservava soltanto che le facoltà di Tom venivano meno di fronte alle astrazioni mostruosamente simboleggiate sulle pagine della grammatica di Eton, e che egli si trovava in uno stato prossimo all'idiozia di fronte alla dimostrazione che due triangoli dati debbono essere uguali, quantunque discernesse con grande prontezza e infallibilità il fatto che essi erano uguali. Donde Mr. Stelling concludeva che il cervello di Tom, come tipicamente ottuso alle etimologie e alle dimostrazioni, era tipicamente bisognoso di essere arato ed erpicato con quei brevettati strumenti. La sua metafora favorita era che i classici e la geometria costituivano quella cultura dello spirito che lo rende atto a ricevere qualunque altra semente. Ed io non ho nulla da obiettare contro la teoria di Mr. Stelling. Se ad esserci un unico regime per tutte le teste, questo mi par buono quanto qualunque altro. So soltanto che per Tom Tulliver esso si dimostrava malsano, come sarebbe stato rimpinzarlo di formaggio allo scopo di guarirgli una debolezza gastrica, la quale appunto gli impedisse di digerire il formaggio. È stupefacente la diversità di risultati che si ottiene col cambiar di metafora. Provatevi una volta a chiamare il cervello uno stomaco intellettuale, ed ecco che tutte le ingegnose teorie sui classici e sulla geometria, considerati come aratri ed erpici, non paiono dimostrare più nulla. Ma allora qualcuno potrà, sulla base di autorità illustri, chiamar la mente un foglio di carta bianca o uno specchio, nel qual caso tutta l'esperienza del processo digestivo diventerà perfettamente inutile. È certo un'ingegnosa idea quella di chiamare il cammello la nave del deserto, ma non porterà tanto lontano quando si tratti di allevare questo utile animale. Oh, Aristotele, avessi tu avuto il privilegio d'essere il più vivace dei moderni, anziché il più grande degli antichi, nella tua lode del parlar metaforico come segno di alto intelletto, non avresti forse infusa una punta di rammarico per questa intelligenza che così di rado si manifesta senza metafore? Tanto che a malapena riusciamo a spiegare una cosa se non dicendo che è qualcos'altro. Tom Tulliver, non avendo abbondanza d'alcuna specie di frasi, non si serviva di nessuna metafora per dichiarare il proprio punto di vista sulla natura del latino. Ancora non l'aveva chiamato uno strumento di tortura e soltanto dopo aver attaccato il semestre successivo e il delectus si sentì abbastanza progredito per chiamarlo una seccatura e una faccenda bestiale. Per ora, di fronte all'esigenza di imparare le declinazioni e coniugazioni latine, Tom si trovava nella più cieca e vuota ignoranza circa le cause e gli scopi delle proprie sofferenze, come fosse stato un innocente toporagno imprigionato nella spaccatura di un frassino per prevenire le storpiature degli armenti. Certo, è quasi incredibile per gli spiriti evoluti di oggigiorno che un ragazzo di 12 anni, non proprio appartenente alla massa, oggi ritenuta detentrice del monopolio dell'oscurità intellettuale, non avesse alcuna idea chiara del perché ci sia a questo mondo una cosa come il latino. Eppure era proprio quel che succedeva a Tom. Ci sarebbe voluto un bel po' di tempo per rendergli concepibile che fosse un giorno esistito un popolo che comprava e vendeva pecore e buoi e sbrigava quotidianamente gli affari della vita per mezzo di una lingua simile. E ancor più ci sarebbe voluto per fargli capire come mai si esigeva da lui che la studiasse, dal momento che i rapporti tra essa lingua e quegli affari della vita erano completamente latenti. Per quel poco di conoscenza dei romani che Tom aveva potuto acquistare all'Accademia di Mr. Jacobs, le sue nozioni erano correttissime, ma non andavano più in là del fatto che essi figuravano nel Nuovo Testamento.